presenta. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come, cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Cosa c'è di tuo qui dentro? Cosa c'è dei tuoi ragazzi e della città? C'è il lavoro della squadra, di una società, di un club che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Se non c'era Setti e Fusco, probabilmente io non c'ero qui oggi, perché nei momenti di difficoltà hanno avuto fiducia in me, nel mio lavoro, e poi alla fine il risultato. Ecco. Cosa gli vai a dire ai tuoi ragazzi adesso? Complimenti. Some people think they're always right. Volevo riportare il Verona in Serie A insieme ai miei compagni, quindi è stata una scommessa, non era facile, penso che in pochi sarebbero scesi in categoria per provare a fare una cosa del genere, quindi sono molto orgoglioso, sono molto contento, davvero una grandissima soddisfazione oggi. Volevo vincere il campionato, volevo essere capocannoniere, essere decisivo, quindi le ho fatte tutte e due, sono veramente contento così. Signori, rivedrete l'Hellas Verona in Serie A la prossima stagione. Abbiamo sentito Pecchia e Fazzini nella festa di Verona, Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Vedrete il Verona in Serie A, potete vedere noi invece, perché la webcam è accesa, soprattutto Giovanni Capuano, eccoci qua, più di me, perché ne vale la pena. E sto facendo questo esperimento, ci sto guardando. Ci stai guardando? Sì, su Facebook. Sì, siamo bellissimi. Io vorrei poter interagire con chi ci guarda sulla pagina Facebook di Radio 24 o sul sito di Radio 24. Se troviamo un modo per interagire. No, ma è facile, fanno i commenti sotto, li leggiamo. Dai, non è che l'abbiamo inventata noi. Almeno stemperiamo la tensione, perché tra Capuano e Pardo oggi c'è la schedina che potrebbe essere definitiva. È l'unico verdetto che questa stagione, insieme alla Champions League, che questa stagione deve ancora partorire. Pardo, buongiorno. Io sono il Genoa e lui è il Crotone, diciamo, però lui mi ha già superato, quindi adesso sì, bisognerà. Sì, ma non c'è neanche bisogno di fare. Sì. È stata una serie di circostanze. No, conducevi, qual è stato il massimo distacco? Tre punti. Cioè, recuperare tre punti, quindi hai perso quattro volte in fila. No, ma aggiungo di più: non solo ha perso quattro volte in fila, ma nelle altre quattro settimane ha pareggiato. L'ultima volta che ha vinto c'era Valenti al 90° minuto. C'era Valenti. Marco Nosotti, buongiorno. Non ti farti la rimballo da questi due. Ma qual è quello vero? È sempre un piacere farsi tirare in ballo quando si parla di football. Sono in mezzo a una strada nel vero senso della parola, in autostrada, spero che non ci sia rumore. Senti, ma come stai? Perché tu sei l'uomo delle feste, l'uomo dei party, ma ti bagnano tutte le volte, finisci in mezzo ai casini, insomma, perché devi portare questa bellissima, questa leggerissima croce? Però l'anno scorso il Carpi, ti ricordo, quest'anno ti hanno riempito di gavettoni a Verona. Come stai? Sì, ma ti devo... No, quanto ti costa la lavanderia? Beh, a volte gli abiti si buttano direttamente, perché ricordo un anno la promozione in Serie A della Fiorentina, si finì nella piscina interna dello spogliatoio e feci interviste da lì con Della Valle, con l'allora sindaco Dominici, però l'abito forse non era di squisita fattura, e quando sono uscito da questa piscina, finito le interviste, non ho fatto altro che togliermelo, cioè, a brandelli, perché era andato, e allora si torna in mutande verso la macchina. Ma va bene, siamo quasi profanatori di un'emozione che è di altri. Noi lì siamo lì per caso. La principale motivazione è arrivare alla festa promozione per poter inondare il nonno, cioè, inondare una cosa che dura da 20 anni, quindi ormai è Arriva, quando arrivi allo stadio, la frase che sento passano gli anni è quella: non succede, ma se succede facciamo quella cosa. E dico va bene, speriamo che non ci sentano, ecco, in giro, che chissà cosa pensano. Però siamo arrivati, il senso del tempo che passa me l'ha dato ieri sera Gantz, che sì, all'ennesimo gavettone, no, mi scusi, la devo tirare quest'acqua. Ti ha dato del lei, Alt, siamo a lei, ma dico va bene che ti ho tenuto in braccio, ma tu hai segnato gol importanti per questa promozione. Vabbè, va bene anche così. Senti, ma ti è mai venuta la tentazione di fare una domanda cattiva in quei dopo partita lì? Sì, perché sai, è vero che magari uno dice sono stato promosso, però ci sarà sempre la pecca nella stagione, allora tu dici allora sai cosa faccio? Te la rovino, ma non è il momento, Capuano, non è il momento però. Aspetta, però che domanda cattiva vuoi fare? Potevate essere promossi prima, vabbè, sì, certo. Oppure resti o te ne vai? No, fatelo rispondere pecchia. Però, perché c'era un però. Però? Marco? Cavolo. Bardo, fai tu lo so. È scattata la domanda censura. Cattiva, il naso si tira indietro, ma giustamente. Ma no, ma come fai in quei momenti? Qual era il però? Non lo so. Adesso lo recuperiamo. Nel caso dell'Hellas, sicuramente per la qualità e per l'inizio di stagione è... che si sia festeggiata l'ultima giornata è quasi surreale, no? Nel senso beh, che... appunto, no, ma poi c'è questo... In realtà però, i però ci sono, la famosa domanda a Milito in mezzo al prato del Bernabeu: hai vinto la Champions, la doppietta, sei un dio, e adesso cosa fai in futuro? Però sai, è quel tranellone che 9 volte su 10 non succede niente, alla decima succede il patatrac, e tu la fai quella domanda lì. Il famoso però, l'abbiamo recuperato? No, non l'abbiamo ancora recuperato, ci saranno gallerie, ma non ci sono gallerie tra Verona e Milano. Va, comunque, Verona promossa in Serie A con questo 0-0, ci saranno i play-off a Cittadella Carpi, e quindi quindi la Serie A ritrova Frosinone, Perugia, eccetera. Retrocedono Latina, Vicenza, Trapani e in Lega Pro insieme al Pisa. No, io sto aspettando Nosotti che è tornato e siamo rimasti sospesi con quel però. Non c'è il noso, se vuoi te lo faccio io il noso. Allora, ti dico, mi ricordo la festa della promozione del Perugia, era la stagione 97, c'erano Olive, Cappellacci, non mi ricordo chi c'era, c'era Materazzi forse, ma il noso è il numero uno in queste cose qui, perché insomma è uno di quei giornalisti che uniscono alla competenza. Senti, quante feste hai fatto tu, Pardo? Quante feste? Ti ricordi? Dammi qualche ricordo di una festa, al di là di quella che conosciamo tutti con il tuo amico Ricciolone. Feste da inviato non ne ho fatte poche, sì, bene, finale di Champions sicuramente quella roba di David Luiz fu clamorosa. E invece a livello di telecronaca ho fatto un paio di scudetti dell'Inter, sì. Uno abbastanza sorprendente a Siena, lo scudetto della Juve il 5 maggio famoso, ero a fare Udinese Juve, lo scudetto, quello con la festa scudetto con Del Piero, che con l'addio di Del Piero è rimasta dentro sicuramente, anche l'addio di Zanetti, la promozione del Palermo dopo tanti anni, sì. Un Palermo Triestina se non sbaglio, poi, la famosa promozione del Genoa che poi a proposito di domande cattive, potremmo anche discutere sul famoso paracadute che favorisce in maniera forse eccessiva chi retrocede. Il Carpi va ovviamente ai playoff con Benevento, Spezia, Frosinone, Perugia. Ma è tornato Marco Nosotti, con cui eravamo rimasti in sospeso per un però, su una domanda cattiva nel corso della festa, tanto per rompere le scatole a qualcuno. Non si fa, no, Marco? Inizialmente, però, quando sei lì la notizia la puoi portare, e allora, come ti dicevo, mi ricordo facendo quel riferimento alla Fiorentina, quella promozione, allora cosa facciamo con Mondonico, caro della Valle? Le scarpe gliele facciamo, visto che lei è specializzata in questo. Ricordo. Ma Mimo Mu e Mondonico fu cacciato. Ecco, bisogna cogliere quel momento in cui Pecchia, che succede a Pecchia? Allora, dicelo tu, che succede a Pecchia? No, resta. Era d'accordo, Setti lo aveva confermato. Da buon carpigiano e far due conti, però dice no, con Pecchia è andato bene, avevo una missione. Aveva una missione e l'ha portata a compimento. Seppure con grandi patimenti nel girone di ritorno, perché il Verona era la squadra nettamente più forte di questo campionato e alla fine si salva nel senso che va in Serie A per il doppio confronto con il Frosinone, altrimenti sarebbe passato da quella tagliola che sono i play-off. L'anno prossimo la Serie A riporta i cinque derby, certo. Abbiamo il traffico, sono un po' depresso per l'assenza di Nosotti. Convocati. Tutti convocati. Oggi ci divertiamo, no, ma ci divertiamo sempre in realtà, ma oggi di più perché Giovanni Capuano mi ha dato questa grande idea. Siamo in video su Facebook e sul sito di Radio 24, oltre che in audio. Ha detto, ma leggiamo i messaggi. Sì, guarda, allora sono tanti che sono felici finalmente di vederci. Ciao, salutiamo Tommy Masao, Guido De Tommaso, Felice Raggio. Tommy Masao vuole la schedina di Pierluigi Pardo. Aspetta, poi, arriva. Poi così come puoi arrivare a team. C'è chi si complimenta perché andiamo dallo stesso parrucchiere. C'è chi ci chiede, Pier, se gli confermiamo Cassano all'Hellas l'anno prossimo. L'ho letto sui giornali, io sapevo, l'avevamo anche detto qualche giorno fa. L'ho letto sui giornali, t'ammazzereo. No, mi ha fatto piacere. Siamo mica qui a fare la rassegna stampa. Già non vieni più a trovarmi. Per fortuna c'è Giovanni che una volta alla settimana mi viene a trovare al venerdì. Già non vieni più a trovarmi. Poi mi dici, lo so perché c'hai Tiki Taka anche alle 7. Lo so che sei a Cologno, ma non, se mi rispondi, l'ho letto sui giornali. Veramente squalificato. Mi ha fatto piacere perché insomma è in qualche modo una legittimazione di quello che sapevo. Sicuramente c'è interesse da parte. Quindi va all'Hellas, dai. Insomma, io penso che sia fattibile. Perché no? L'ha confermato Setti. Penso che sia una bella, ma anche poi, la palla, bella quando lo trovi sui giornali, poi dimmelo, fammi sapere. Poi c'è chi ci chiede se parleremo delle parole di Ausilio. Sì. Parleremo delle parole di Ausilio. Però adesso c'è il preziosissimo cameo settimanale di Maurizio Crosetti. Ho anche un messaggio per lui, allora. Vai. Ciao Maurizio. Oila, cameo. Siamo in diretta su Facebook, Maurizio. Sì, fate voi, insomma. Apri il computer, vai sulla pagina di Radio 24. Che giovani che sei. Io non sono su Facebook, quindi so che questa è la notizia del secolo. Sai che esiste? Anch'io so che esiste. Anch'io so che esiste, sono iscritto, ma preferisco non partecipare. È quella cosa per vedere anche come trasmettiamo tutti i convocati. La domanda è questa: tutti continuate a dire che Allegri fa bene ad andarsene in caso di triplete, ma sarebbe un pazzo secondo me, dice Carlo Dainese. Perché io ho aperto questo sondaggio che non mi interessa se vi annoia, però io sono molto curioso. Allora, sei Allegri, vinci il triplete, che fai? Non l'ho ancora chiesto a Giovanni Capuano, ma lo chiedo prima a Maurizio Crosetti. Di Pardo conosco già la risposta, vado via ed è la mia stessa risposta. Sì, in teoria io andrei via, non credo però che sia così scontato. Non lo so, Allegri è un po' che non si manifesta argomento, nemmeno faresti? Tra chiusi. Io me ne andrei. Anch'io. Io sono della teoria che bisogna lasciare un attimo prima che te lo dicano gli altri. Poi non riesco mai a lasciare niente, peraltro. Guarda Luis Enrique che fine ha fatto. Tu, Giovanni? Che fine ha fatto? Luis Enrique ha fatto l'allenatore per altre due stagioni del Barcellona, ho capito. Ma io onestamente contesto un po' questa teoria per cui se tu arrivi al culmine non esiste un'altra sfida. Esiste anche un'altra sfida, magari provare nel caso della Juventus ad allungare ancora questo ciclo o invece semplicemente sedersi e fare quello che hai fatto a Berlino e dire c'è una parte di questi giocatori che ha finito, innestiamo linfa nuova e costruiamo una Juve che va avanti per altri 10 anni. Mourinho andò via dall'Inter perché Mourinho sapeva benissimo che era finito il ciclo dell'Inter, era finito il ciclo di Moratti. Sì, perché c'è una differenza sostanziale. Io non capisco perché si debbano accomunare sono le due pochi cose. Gli allenatori, Pierluigi, che se rimangono per ricostruire. Io credo che questa risposta ovviamente la può dare soltanto Allegri, nel senso che ho fatto di motivazione e quindi noi stiamo cercando di immedesimarci nella testa di Allegri. Io penso che se riesci a fare un'impresa così, poi l'anno dopo sia molto difficile avere lo stesso tipo di, di motivazione. Però e di trasmettere lo stesso tipo di motivazione. È pure vero che io non sono uno sportivo o un agonista professionista, quindi non sono diventato calciatore un po' perché non avevo il fisico, ma probabilmente anche perché non avevo la testa per fare lo sportivo a certi livelli. Quindi è chiaro che qui stiamo parlando di persone speciali che sono abituate ad avere un livello di ambizione che è superiore rispetto ai comuni mortali. Quindi poi magari invece Allegri, l'anno prossimo, la motivazione di Allegri è quella di ripetere il triplete. Quindi non mi sento di dare una risposta al 100% definitiva. No, ma nemmeno io. Fuori. È chiaro una sensazione. Che dopo che fai il triplete, che vuoi fare? Anche cioè, questa è una motivazione. O provi a farlo da un'altra parte, o ti fermi, ti prendi un po' di vacanza e ricarichi le pile per l'anno dopo. Cioè, esatto, questo... e cerchi e aspetti una panchina che sia degna del tuo status di top coach, di top, di allenatore top, comunque top alla Cruciani. Maurizio, invece, settimana romana della Juventus, si passa dalla sconfitta con la Roma. Io prima della finale di Coppa Italia ho detto, ho ripetuto mille volte e resto convinto, sarebbe stato meglio arrivare, meno pericoloso magari arrivare alla finale con lo scudetto già sul petto, ma lì una grande impresa probabilmente l'ha fatta la Roma e Allegri ha indovinato tutto nel gestirli così. Fino a, appunto, la Coppa Italia alzata, ghermita, presa, fino all'audizione di ieri. È stata una settimana lunga e complicata, interessante quella della Juventus a Roma. Sì, una settimana in cui molti degli aspetti che tu hai citato sono suggestivi da vedere insieme, ma fanno, come dire, fanno sistema ma c'entrano poco. L'audizione, assolutamente, l'audizione assolutamente dell'antimafia racconta una storia che andrà approfondita in altra sede, come si dice, oppure in quella sede, per far chiarezza non tanto sul fatto che la Juve possa essere stata cattiva o no, ma sul fatto che ci sono ancora purtroppo snodi difficili da sbrogliare nei rapporti tra tifoseria organizzata, ultra e club calcistici. Questo non è solo un problema di Juve, la Juve ha, come dire, ha pestato la cacca probabilmente, ma sono in tanti a fare, a correre quel rischio lì. Praticamente quello, tutti. Io voglio fare quella è un'altra cosa. Sentiamo cosa ha detto Agnelli dopo questa audizione. Oggi sono stato felice di essere qua in Commissione Antimafia, è stata una giornata importante dove in primis ho svolto il mio dovere di cittadino, così come è stato lunedì durante il corso dell'udienza a Torino. Sono momenti importanti, lo sguardo è stato rivolto chiaramente al futuro, perché il ruolo della Commissione, così come ha ribadito la Presidente Bindi, è quello di analizzare quelle che sono le situazioni per poter proporre delle soluzioni affinché non il calcio, ma l'Italia, perché la Commissione Antimafia in plenaria parla di un problema italiano, non subisca infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali. Sembrano parole di estrema saggezza ed è giusto darne notizia, anche se insomma, nell'atto primo venne esploso il bubbone, in questo atto secondo, cioè l'audizione di Agnelli, c'è stato molto meno spazio. In questo atto secondo c'è in realtà il seme di una cosa che potrebbe essere esplosiva, e cioè, certo, quando il presidente della Juventus ti viene a dire: sono i poliziotti che mi chiedono di lasciare la curva in mano agli ultra, ditemi voi, secondo me siamo al cuore del problema. Siamo al cuore, come diceva poi, giustamente Crosetti. Poi credo che passeremo oltre. Le curve sono zone franche, non per volontà dei club. Beh, c'erano le famose dichiarazioni anche di... Certo, anche De Santis, giocatori della Roma, di De Santis, no? E quindi voglio dire, che esista o che sia esistito in certi momenti una sorta di quieto vivere, una sorta di prassi, di cercare di prevenire invece che di risolvere i problemi, cercare di evitare i grossi guai, e quindi una forma anche di comunicazione non proprio eccezionale e corretta con certe frange, beh, questo è abbastanza. Io sospetto che ieri Allegri abbia buttato giù l'asso di bastoni, Agnelli abbia buttato giù l'asso di bastoni, perché non so perché, ma ho l'impressione che l'approfondimento su questo tema sarà molto doloroso e complicato da fare, tanto che magari si potrebbe passare ad altro. Stessa idea, Maurizio? Sì, penso che peraltro la responsabilità dei club non possa essere liquidata soltanto al fatto di essere o non essere tenuti in ostaggio. Va comunque detto che in questi anni molti club con gli ultra hanno anche non soltanto chiuso un occhio per quieto vivere, ma chiuso tutti e due, perché conveniva anche incoraggiare certi affari. Cioè, voglio dire, l'incoraggiamento del bagarinaggio, non sto parlando di Agnelli, sto parlando in generale, è una responsabilità, non è soltanto la conseguenza di un ricatto. Quindi, cioè, occorrerebbero 7 trasmissioni, se volete facciamole. Finalmente si parla però di una cosa che è sempre stata imboscata, si sa che c'è, però non si può affrontare, tanto irrisolvibile. No, questa volta può essere anche l'occasione per porsi il problema. Ecco. Dalla cacca può nascere un fiore, dicevano qualcuno. Questo è quello che io spero. Ha detto che richiamerà il capo della polizia per chiedergli se è vero che la polizia dà disposizione di questo genere. O se è vero, ragazzi, che magari compratevi birra e patatine, perché secondo me è da ascoltare. La consegna dei biglietti, degli abbonamenti avveniva in questura. Ma comunque, torniamo al campo per un'ultima cosa per Crosetti, poi noi invece andiamo avanti dopo la borsa. Maurizio, non trovi che triplete, uno in bacheca e uno titolava Tutto Sport, gli altri due Juve 1, e due arriva, ma non respiri un po' troppa fiducia nel 3? Cioè, sì, sembra qualcosa di ineluttabile. Sì, qui si rischia di andare dalla parte opposta, cioè dal sentirsi comunque sfavoriti come contro il Barcellona a come dici tu, a sembrare che quasi questa cosa arriverà automaticamente. E lo chiedi comunque a una persona che qui non nasconde la mano, non cambia idea, che ha dichiarato sin dal primo momento di vedere la Juventus favorita per una serie di ragioni. Però da qui a essere sicuri che il Real Madrid non sia, cioè sia facile da battere, o che questa sia una specie di destino già compiuto, no? Non c'è scritto da nessuna parte che sia così. Cambia tutto a seconda di come si arriva a questa partita. Da oggi, da domenica, insomma, al 31 di maggio, a un minuto prima della partita, quindi al primo di giugno, cambia il borsino, no? Cioè oscillerà tantissimo. Basta che un giocatore decisivo abbia la bua o che succeda chissà qualcosa che non va proprio benissimo nella preparazione atletica di qualcuno, vale anche per il Real, e questo si sposta. Io credo che sia in equilibrio, credo che la Juve sia più completa, ma che il Real sia uno squadrone, che quindi è meglio non dare nulla per scontato, anche perché il Real Madrid vince sempre le finali e la Juve quasi sempre le perde, quindi già solo la storia dovrebbe far tenere gli occhi aperti, ecco. Sì. Grazie Maurizio, ciao, grazie. Ti abbraccio. E rimane saldamente sotto il tavolo. Tutta la storia dovrebbe far tenere. Guarda, ti leggo tre messaggi, poi ci fermiamo. Allora, Zidane ha vinto tutto, ma è rimasto ed è in finale, però non aveva fatto il triplete. Emanuele Conte, c'è chi ci dice che Alfio Viscardi non ci sono i segnali di un addio di Allegri, e comunque vada a Cardiff, perché c'è anche chi dice: ma se perde a Cardiff, cosa deve fare? Deve andarsene lo stesso perché ha perso la seconda finale in 3 anni. Chi ci chiede di commentare: Scicca alla Juve, Marco Tommasi, Guido Amici vuole un pezzo di Soundgarden. Vuole un pezzo del Soundgarden. Allora lo mandiamo subito. Questi dopo sono i messaggi la sotto la diretta video per ricordare la scomparsa avvenuta ieri di una delle due voci più belle del rock, a mio parere, e non solo a mio parere, Chris Cornell, che non c'è più, e ci rimane Eddie Vedder. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Lo scorso anno oltre 190.000 contribuenti hanno scelto di dare il proprio sostegno alla ricerca contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Con il tuo semplice gesto potremo raggiungere importantissimi traguardi nella ricerca, nel sostegno ai pazienti e alle loro famiglie. Nella dichiarazione dei redditi, devolvi il 5 per 1000 a favore dell'AIL. Riporta nell'apposito spazio il codice fiscale AIL 80 10 239 0582. Info www.ail.it. Riscaldamento centralizzato? Basta con costi generalizzati e inefficienze. PDA Energy è il sistema wireless per la termoregolazione e la contabilizzazione dell'effettivo consumo dei singoli condomini, senza misuratori sui caloriferi. Regoli tutto e controlli i consumi dal tuo smartphone. PDA Energy gode della detrazione del 65% riservata ai sistemi intelligenti. PDA Energy, da Perry Electric. Nella vita come nel lavoro esiste ciò che devi fare e quello che desideri fare. Devi guardare più lontano, avere tutto sotto controllo. Ora puoi farlo mentre fai esattamente ciò che vuoi. Goderti il piacere di guidare la tua nuova BMW Serie 5 Touring. La massima espressione della tecnologia BMW. Nuova BMW Serie 5 Touring. Devi venire a provarla, solo perché vuoi venire a provarla. Il 20 e 21 maggio in tutte le concessionarie BMW. Presto. questo autista. Segua quel veicolo. Ma per chi mi ha preso? Per Visirà? Controlla, gestisci e segui la tua flotta in tempo reale comodamente dal tuo PC, tablet o smartphone. Con Visiran, a partire da soli 19 euro al mese, potrai gestire i tuoi veicoli sulle mappe, prevenire furti di carburante, controllare le ore di guida, comunicare direttamente con gli autisti e tanto altro ancora. Vuoi saperne di più? Vai su visiran.it per una prova gratuita. Visiran. Se non vedi, non sai. Se non provi, non capisci. È tornata Giovanna? Sì, certo, sta verniciando il cancello col Fernovus. Fernovus Saratoga vernicia direttamente sulla ruggine nel colore che vuoi e non cola. Brava Giovanna, brava! Fernovus Saratoga, lo smalto antiruggine. Visto che brava? State ascoltando un programma offerto da... Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Tutti convocati. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il... Blessing di Mertens, che ruba il pallone a Tomovic. Mertens, fino in fondo, Mertens! Mertens! Sempre lui! Dis-moi où est ton papa, sans même devoir... Caglie con Goulam, rimasto alto Koulibaly, attenzione, Mertens, zona tiro, doppio dribbling, Mertens, rete, che gol, che numeri Mertens, fuori classe assoluto! Ancora Mertens, non è vero, fa crollare il San Paolo! L'ho detto già, è un piacere per me perché mi piace giocare per questa squadra e... è un piacere, e, ma anche è buono perché i tifosi vogliono che io giochi per Napoli, e anche un piacere per me. Allora, ho promesso Chris Cornella, ve lo faccio sentire dopo naturalmente, un suo brano. 800240024 per intervenire, guardateci in diretta video su Facebook e sulla pagina di Radio 24. Giovanni Capuano si è appassionato moltissimo, ma anch'io. C'è scritto Paolo Maldini. Paolo Maldini. No, credo sia un omonimo, però che ce l'aveva su con Crosetti. C'è Fabio Gueri che ci chiede se l'Atalanta deve vendere, smantellare, fare cassa, ottenere tutti. L'Atalanta ma magari la via di mezzo. L'Atalanta deve fare l'Atalanta, sta facendo qualcosa di splendido in aver acquistato anche lo stadio. Però andiamo a bomba, andiamo un po' veloci. Allora, questo montaggio era dedicato a Dries Mertens. Voi telecronisti, caro Pardo, ne avete raccontati una caterva, forse irripetibile, di gol di questo giocatore. Quest'anno ha rinnovato fino al 2020. Nel 2018 ci sarà una clausola valida per l'estero e solo per l'estero di, da 28 milioni, ricordiamo che avrà 31 anni o giù di lì. Già siglati i rinnovi di Amsic, Aleyon, Albiol, Isai, Insigne, Koulibaly. Antonio Giordano, buongiorno. Sono qua, sono attenti ragazzi, dopo aver sentito tre voci meravigliose per le quali aggiungo la tua. Mamma mia, che inizio, Giordano! Pardon, non prendo, non pubblicamente. Mamma mia, effetti speciali. Senti, Antonio, cosa vuol dire rinnovo di Mertens? Domanda banalotta, lo so, ma voglio arrivare da un'altra parte. Vuol dire che c'è una grande società, poi diranno che sono filo societario, ma non fa niente se rinnovi 7 giocatori su 7 praticamente negli ultimi 9 mesi e porti il tuo monte ingaggio praticamente a sfiorare il raddoppio della cifra precedente. Vuol dire che è un progetto, e questo progetto va avanti da 13 anni ed ora ha toccato la punta più alta. Mertens, non so chi l'ha urlato prima, è un fuoriclasse, è uno che ha scoperto a 29 anni, grazie a Maurizio Sarri, di avere dentro di sé delle qualità che gli erano sconosciute, tanto a lui quanto agli allenatori. Sì, posso dirti, secondo me, una stagione irripetibile per quanto riguarda questi numeri, Pierluigi. Sì, diciamo che l'ha scoperto anche grazie all'infortunio di Milik, nel senso che l'anno scorso Mertens invece era stato molto sacrificato e giocava, c'era Higuain ovviamente, però era quasi sempre seconda scelta dietro Insigne, però insomma, l'anno scorso giocava veramente pochissimo. Quest'anno un insieme di fattori, tra cui ovviamente anche la capacità di Sarri, hanno fatto sì che esplodesse, ed è un giocatore incredibile, un giocatore secondo me insomma, io a me Mertens mi è sempre piaciuto tanto e l'ho trovato sempre molto, anche l'ho trovato anche sottoimpiegato in passato, insomma. L'anno scorso l'abbiamo detto questo molte volte. Allora adesso butto lì un cerino e poi vi consegno la palla. Capuano, Giordano e Pardo, la prima è questa: cosa vuol dire due cerini legati tra di loro? Cos'è questo patto annunciato da Insigne? Restiamo per tutti insieme per vincere. Secondo, sappiamo bene che a Napoli ci sono Ghoulam, che è in scadenza l'anno prossimo, e c'è Koulibaly, che verrà conteso a suono di soldoni pesantissimi da praticamente tutta l'Europa che conta. Cosa fareste voi? Dove è migliorabile, e se e dove è migliorabile questo Napoli? Palla a voi. Guarda, io ti dico una cosa: il fatto che stiano arrivando tutti questi rinnovi, tra l'altro con una prospettiva tipo la clausola di Mertens, magari tra un anno di essere liberi nemmeno a un prezzo altissimo, secondo me significa che De Laurentiis, ed è la vera notizia, si è quasi convinto che l'anno prossimo può essere l'anno buono per tentare il colpo grosso e per tentare lo scudetto e dare un compimento a tutto questo percorso che ha descritto Antonio Giordano. E quindi io mi aspetto che non vada via nessuno, nemmeno se arrivassero i 50 milioni per Koulibaly. Pardo, prego. Significa quello che diceva Antonio, cioè secondo me comunque la società sta investendo e non c'è, ma questo vale non solo nel calcio, vale anche nella vita, non ci può essere azienda che non cresce se non aumenta i costi. Il punto è l'equilibrio virtuoso tra costi e ricavi. Il Napoli questo equilibrio ce l'ha, è una società con un bilancio in ordine, è una società che sta crescendo molto. Sì, però dicevamo anche ieri che la Forbes con la Juventus è destinata ad allargarsi. Il problema è quello, cioè il problema è, lo ripetiamo e siamo noiosi, è la Juve. Cioè il problema del Napoli e della Roma in questi anni è stato solo la Juve. In certi momenti queste società, nei momenti magari quando appena arrivava una sconfitta, un pareggio, sembrava quasi fossero sfigate, ma in realtà stanno facendo una cosa enorme, perché riuscire a stare su quei livelli, oggi ci sono i numeri sulla Gazzetta del fatturato della Juve, come è cresciuto negli ultimi 10 anni. Certo, capisci che per Napoli e Roma la forbice è destinata ad allargarsi, cioè, ancora e ancora fine, e stare ancora lì, ancora teoricamente in corsa per il titolo, anche se lo vincerà la Juve, è già un grande risultato. Chiosa, Antonio Giordano. C'è una sola strada per competere con la Juve, è quella delle idee, altrimenti si rimane soffocati da quello che si diceva prima tra Capuano e Pardo, cioè c'è una forbice troppo netta. Le idee del Napoli hanno portato a costruire questa squadra che nel girone di ritorno sta facendo meglio di tutte quante le altre e che quindi crede di avere le potenzialità, eventualmente ritoccata dove potrà servire l'anno prossimo, per rappresentare la principale alternativa della Juventus. Per quanto riguarda invece ciò che dicevi su Koulibaly, onestamente, visto che chiedevi un mio parere, se lo portano 60 milioni di euro, credo sia doveroso accompagnarlo. Ma però siamo passati da 40 a 50 a 60. Sono d'accordo, come ha fatto la Juventus con Pogba. Ha venduto Zidane, Napoli ha venduto Higuaín. Cioè, perfetto, allora chiudiamo il discorso così. Facciamo 60 per Koulibaly e sono d'accordo. Che fai, secondo me, porti tu? Li porto io. Li metto in una valigetta che mi consegna Pardo. Mettiamo 60 per Koulibaly, è ragionevole, è giusto, corretto, utile, economico. No, se non mi puoi venderlo nemmeno a 60 se cederlo, vuoi vincere. Cederlo, cosa fai a quel punto, Antonio? Credo che Napoli abbia già in organico un grande difensore del Maximovic, ma poi sono hanno dimostrato di saperne trovare altri. Se pensiamo che l'anno scorso, quando il Napoli ha comprato Zielinski e Rog 18+15, si pensò ad un'esagerazione dettata, come dire, all'entusiasmo per avere in tasca i 90 milioni di Higuaín. Fra 2 anni vedremo quanto varrà Zielinski e anche Rob. Varrà molto più di quei soldi lì, però c'è una parte del Napoli, una parte importante, Antonio, e tu lo sai meglio di noi, che sta arrivando ai 30 o li sta superando. E certi attimi vanno colti, altrimenti è un continuo preparare un ciclo, e però quando arriva il momento di sbocciare lo tagli. Ma tu sai però purtroppo che se Calleon e Mertens hanno 30 anni non è colpa tua, cioè è il tempo che sta sfuggendo via, e intanto andrei a cercare i Calleon e i Mertens del futuro. Sono d'accordo. Sono d'accordo. I rischi e il rogue sono due d'accordo. Grandi investimenti. Sono d'accordo. Il Napoli già l'ha fatto, perché la parte forse più virtuosa della campagna acquisti e cessioni dell'anno scorso, Sì, me l'ha fatta anche dietro, perché uno come Maximovic, adesso lascia perdere che... Adesso deve farlo davanti, ha ragione Antonio, però, certo, però senza, certo, senza cominciare a smantellare dietro, perché altrimenti è una tela di Penelope. Ragazzi, se vedi il Gulam e Koulibaly, devi rifare metà della senza difesa. Senza Ibrahimovic, la Juve è in corsa per vincerlo senza Pogba. Bravo, però ha preso Pjanic e Higuain. Non c'è bisogno di Mazzanichi. Però, perdonami, ha preso Pjanic e Higuain, allora ha ragione un amico che ha scritto: al Napoli per vincere servono tre calciatori che hanno già vinto, cioè non Zielinski. E allora puoi fare questo discorso come ha fatto la Juventus. Koulibaly, devi comprare Marquinhos. Se tu vendi Koulibaly per l'anno prossimo, devi andarti a comprare un difensore fatto e finito e ne spendi i 60 che hai preso, li spendi su uno. Antonio Giordano, perché Maximovic, secondo me, per come l'abbiamo visto in Italia prima degli infortuni, è un signor giocatore. Antonio, ti ringrazio. Ragazzi, vi abbraccio tutti quanti. Anche noi abbracciamo te. Lo circumnavighi. Anche noi abbracciamo te. Subito dopo il traffico, io voglio fare due chiacchiere di Inter e poi andiamo su una schedina che questa settimana sarà scottante, dire poco. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Black hole sun, won't you come? Wash away. Finiamola qua, perché io non sto scherzando, ho un groppo in gola. Giovanni Capuano lo può testimoniare, lo potete vedere, lo potete vedere, non me ne frega niente di mostrarmi commosso attraverso i video. Però tra l'altro questa è una delle mie canzoni preferite dei Soundgarden e di quella voce meravigliosa di Chris Cornell, a cui eleviamo una prece. Vabbè, diamo un po' di corsa oggi. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. A lei. Vi ascolto sempre, siete bravissimi. Un saluto particolare a Pardo. Ma perché non mai un saluto particolare a me o a Capuano? Scusi, Ma non so, perché Pardo si salutano sempre quelli lontani. Si salutano sempre quelli lontani. Perché lui è famoso, perché lui è bello, esatto, in televisione, per quello. Bravi, ragazzi. Esatto. No, grazie a tutti. Un saluto a tutti, dai, in generale. Anche a te, Andrea. Ciao, alla prossima. Dica. No, allora io premetto che io sono un milanista, però veramente faccio un grande augurio alla Juve di vincere la Champions e di fare il triplete, soprattutto Allegri, che è rimasto comunque nel mio cuore di milanista, che non ho mai capito perché sia stato mandato via dal Milan, con molto dispiacere per me. Comunque niente, auguro veramente, insomma, sarei contento se, vincendo la Champions, Allegri andasse. Io penso che la squadra migliore dove potrebbe andare sarebbe Paris Saint Germain, no? Che è una squadra che ha bisogno di essere rilanciata. Io lì sì, non mi sembra, penso anche lo scudetto. Hanno, è vero, molti soldi, sono legati alle lune di principi arabi. Non mi sembra una realtà così appetitosa, ma questa è solo un'idea mia. Allora, voglio chiudere questa prima ora, poi abbiamo Racing Team come ogni venerdì, con un discorsetto sull'Inter. Ieri Ausilio è intervenuto all'Università a Milano per un convegno alla Statale di Milano e ha detto un sacco di cose pesanti, importanti. La verità è che dobbiamo rispettare il tetto salariale, il nostro fatturato è 230 milioni di euro, quello della Juve 400, quindi la differenza potete conoscere, non si recupera prendendo i migliori calciatori, perché poi i migliori calciatori vanno dove ci sono più soldi, dove possono giocare la Champions se vogliono vincere. Bisogna rischiare anche prendendo giocatori giovani. Gabigol, no, quello è qualcosa di diverso, ma non posso spiegarlo, è una verità, è un segreto di Pulcinella che conosciamo tutti. La nuova proprietà cinese potrebbe tranquillamente comprare giocatori più famosi tipo Cristiano Ronaldo, ma la verità è che non possiamo farlo perché c'è quel famoso fair play finanziario. Ha detto anche molte altre cose che trovate. Ha detto anche che il gruppo dell'Inter è spaccato, che il gruppo dell'Inter è spaccato, che sono bravi che non ragazzi, ci sono valori umani. Ha detto tante cose che non avrebbe mai detto, credo, in un'intervista allora, pubblica. Abbiamo praticamente due minuti e voglio un commento a queste parole da Cavone e da Pardo. Guarda, il mio è questo: ha fatto un'operazione di verità. Il problema è che l'ha fatta probabilmente inconsapevole che sarebbe finita sui giornali, il che, se è così, è stata una grandissima ingenuità, e vedremo se in qualche modo avrà poi dei riflessi sul suo rapporto con l'Inter. L'operazione verità, dopo mesi in cui in tanti hanno scritto che la potenza di Suning era illimitata e l'Inter avrebbe fatto un mercato sontuoso in grado di riportarla immediatamente a competere con la Juventus, la verità è che le cose si fanno per gradi, le regole continuano a esserci, e quindi l'Inter è più solida che in passato, ma il cammino per tornare grandi sarà lungo, ammesso di commettere bene, con Pardo ne parlo un'altra volta perché c'è la schedina. Oggi mi sento sulla gogna per quanto riguarda i tempi, ma comunque. Pronto, Pierluigi? Sì, sì. Schedazza. Attenzione, Pardo in vantaggio di Capuano, in vantaggio di 1. Sì. Di 1. Napoli-Fiorentina. No, c'è prima Chievo-Roma. Chievo-Roma c'è prima. Vabbè, due. Andiamo. Chievo-Roma 2, dai. Napoli-Fiorentina. 1. Pier. E uno, sì, scusami, uno, dopo scontro che hai ragione, uno. Empoli-Atalanta. Che cosa? Devo dire io, Empoli-Atalanta? No, devo dirlo io, dai, ragazzi. Vai. Empoli-Atalanta, X. 2. Genoa-Torino. X. X. Juventus-Crotone. 1. 1. Milan-Bologna. 1. 1. Sassuolo-Cagliari. 1. 1. Udinese-Sampdoria. Chi tocca? Lui, eh? Sì, sì, X. X. Lazio-Inter. 1. 1-1. Si spariglia con un Pescara-Palermo già retrocesse lunedì. Pescara-Palermo già retrocesse lunedì, facciamo 1. 1. Benissimo. Ne abbiamo una diversa, dai. Questa è la... Ce la giochiamo con Empoli-Atalanta. Potrebbe assegnare il titolo. O forse no. No, non potrebbe assegnare il titolo. Potrebbe. Va bene. Grazie, Piero. Ho uscito il tweet, il livello... Cioè neanche a Capodanno siamo così sul pezzo, ragazzi. Ciao Pier. Ciao. Rimani per Racing Team. A dopo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. State ascoltando un programma offerto da... Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Te ne vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Racing Team. anche Giovanni Capuano ormai è addicted to Racing sì, Team. Sì, non posso mancarlo. Convocati, non puoi mancarlo. Ricordo la diretta anche video, così potete vedere Roberto Ungaro, che è veramente un bel uomo, un grande ex pilota, una voce storica, la nostra voce. Sito di Radio 24 e pagina Facebook di Radio 24. È iniziato il weekend nel santuario di Le Mans, pista storica. Valentino Rossi aveva espresso un desiderio, questo. Sicuramente queste condizioni non aiuteranno nessuno per mettere a posto le moto, però sarà anche interessante provare la M1 sul bagnato e vedere come va, sperando che il tempo migliori e si arrivi a una domenica di sole. Allora, Roberto, è stato accontentato nella prima giornata di prove? Sì, allora, ha provato due setting, uno da bagnato e uno invece da asciutto, però le free practice contano fino a un certo punto, perché sono partite bagnate e poi alla fine si sono un po' asciugate. C'è chi ha montato la slick, non tutti però, e si è fatto vedere Miller, lo sappiamo che sul bagnato è molto forte, poi Marquez, Zarco, l'idolo di casa francese, teniamolo d'occhio, è lui la prima Yamaha, Cratchall, altro francese, Loris Batz, Valentino è un po' indietro, era solamente ottavo. Poi invece le free practice 2, acqua totale, bagnato dall'inizio alla fine, Dovizioso al comando, cioè, tra l'altro c'è Stoner anche al box, Marquez secondo, bravo Petrucci, anche lui sempre molto veloce sull'acqua, terzo, Scott Redding quarto, Iannone si rifà vedere quinto, Alvaro Bautista, Miller passa in settima posizione, Valentino Rossi, attenzione, che è decimo, un secondo e tre, un distacco importante. Però il meteo per domenica prevede sole. Quindi l'incognita domani, perché potrebbero provare anche la nuova gomma, sapete, la nuova anteriore Michelin più rigida, però sarebbe poi rischioso, c'è poco tempo, la giornata di oggi è andata via, è andata persa. E quindi teoricamente che corsa dobbiamo aspettarci? Notoriamente la Francia è una pista Yamaha, però adesso c'è un punto di domanda molto grosso, che è la gomma Michelin, quello regolerà la corsa sicuramente. È una pista, Valentino? Non è una delle piste preferite da Valentino, ma può far bene qui, quindi può assolutamente riscattarsi dall'ultima gara opaca che ha fatto. Però ripeto, il problema maggiore è gomme, e anche Vignales con l'altra Yamaha qui potrebbe far bene, e le Honda hanno reagito, bisogna capire se Pedrosa è stato un fuoco di paglia oppure no. Ne abbiamo di argomenti, se sì, anche Lorenzo si riconfermerà oppure no. E dobbiamo vedere domani, perché saranno le prime vere prove e per poter preparare la moto in assetto gara poi domenica. 800 24 00 24, se volete intervenire o mandare messaggi al 349 238 6666, o al nostro sito Facebook, in cui potete anche guardarci. Quindi la teoria dice questo. Valentino ha detto anche un'altra cosa: non sappiamo esattamente cosa aspettarci, perché pensavamo di andare bene a Jerez, invece è stato un weekend difficilissimo, però siamo venuti a provare qua e i test sono andati piuttosto bene, ecco. Cosa rispondi, Roberto, a queste parole di Rossi? I test sono andati piuttosto bene, è fiducia o pretattica? Secondo me è più pretattica, eh? È più pretattica, vuol far vedere che non è sotto pressione, è comunque ancora lì davanti, anche se per poco, e quindi mostrare i fianchi, far vedere del nervosismo, regalerebbe agli avversari, questo sicuramente. Secondo me è l'intelligenza sopraffina di Vale che viene fuori in questa dichiarazione. È chiaro che è una gara strategicamente molto, molto importante, perché rimane primo nel mondiale, è l'unico dei grandi ad aver chiuso tutte le gare, deve mantenere quello zero, e quindi questa sarà la grande sfida di Valentino Rossi, che poi sappiamo strategicamente importante, perché psicologicamente quello che è successo ai Res della Frontera ha un po' invertito quell'equilibrio che si era creato all'inizio della stagione. Io dico la mia, io in Pedrosa non ci credo. Io però ho visto raramente Valentino Rossi, cioè raramente, per carità, ha 20 anni di carriera, però insomma deluso come due settimane fa. Perché non se l'aspettava. Assolutamente no, è quello che dico. Ma l'hanno capita o no? Perché l'incognita è il problema Michelin, non del tutto, assolutamente. Infatti c'è un grande quesito questo, cioè tutti non sanno dare una tanta strategia pretattica, perché bisogna risolvere questo problema, non aiuta questa giornata di pioggia e quindi tutto si sposta più avanti. Alcuni piloti hanno scelto la gomma più dura, alcuni no, quindi non c'è un'opinione comune, anche questo non aiuta, staremo a vedere. Però Hai detto bene, Carlo, che lui è l'unico che non ha ancora buttato via, a parte il problema di gomma Carez. Però se vuole vincere un campionato non può solo fare sempre podio o avvicinarsi, cioè un colpaccio o due li deve fare, perché quegli altri sono troppo motivati, cioè sono più veloci, non solo sul giro secco ma comunque anche gara, e lui stesso ammetterlo, Valentino, quindi bisogna reagire. Valentino deve almeno un paio di vittorie farle. Allora, ecco Leo Turrini che non ci rispondeva perché era in coda probabilmente sulla terraformata. Tutto bene? Benissimo, e tu? Io sono qui in porto con un grande velista, mio carissimo amico, che si chiama Serrau, che però è fanatico di motociclette. Vorrebbe sapere, ma alle mani, c'è la possibilità che Valentino Rossi rimetta le ruote davanti a Marquez e a tutta questa brigata di competitors? Chi mi risponde? Ungaro, che c'è, risponde. Ciao Leo, c'è la possibilità. Ciao maestro Ungaro. Ciao Leo, c'è assolutamente la possibilità. Davvero? Che sì, oggi ha piovuto. Beh, Yamaha è sempre stata una pista Yamaha, eh. È chiaro che le nuove Yamaha sono diverse da quelle di anni fa. Però il problema è che oggi è stata acqua e quindi non ci hanno capito niente. Le prime prove. Senti, ma immagino che essendo piovuto per l'effetto Belen, Iannone sarà caduto, no? Sei, per scontato, perché lei che gli dice sempre si è sdraiato, si è lui steso. Si spende a tutte le curve, è vero anche questo, no? Undicesimo nelle prime prove, invece è risalito quinto nella seconda, quindi sta andando, mi piace il verbo risalito pensando a Belletti. ma perché questo velista è molto curioso, sei veramente una carogna. Lorenzo com'è andato con la Ducati? Allora, voi capite dal mio accento che io non vengo né da Bressanone e né da Courmayeur, quindi insomma neanche da Messina. È indietro Leo, quindi quindicesimo, più di due secondi di distacco. Grazie, sì. Al resto di Carlino ci tagliamo le vene se la Ducati va male. Non dovete dirci queste cose. Sai cosa ho fatto oggi, Turrini? Hai mandato gli auguri a Raikkonen che è nata la bambina? No. Rihanna. L'ha chiamata Rihanna per fare un dispetto ad Hamilton. Oggi ho fatto una grande cosa. Cioè, ho ricomposto, anche se Roberto è qui, mentre il grande è al telefono, coppia di commentatori del moto mondiale su Eurosport, Marco Lucchinelli. C'è Lucchinelli con noi? C'è Lucchinelli con noi. Grandissimo. Come stai, Lucky? Diciamo bene. È vero, tutto che eravamo una bella coppia. Caro Lucchinelli, io penso che tu sia un mito. Io ero un ragazzo quando hai vinto quel mondiale. Sì, un ragazzo, eri un ragazzo. Avevi tu 50-60 anni, no? Eravamo io, Enzo Ferrari, Tassio Nuvolari, Achille Varzi, che andavamo tutti matti per Lucchinelli, perché aveva un talento naturale straordinario. Senti Marco, ma dimmelo tu, perché questi non mi rispondono. Valentino ce la può fare quest'anno, è troppo tardi per la decima? Ce la può fare, sono 8 anni che ce la può fare, ma che non ce l'ha fatta gli ultimi 8, quindi ce la può fare, ma bisogna che vinca delle gare, cioè bisogna che vinca almeno 2 gare, perché hai letto quello che ha detto ieri il tuo amico Agostini? Hai letto? Ago. ha detto ma il problema di Valentino è che gli altri sono più giovani e rischiano dove lui non se la sente più. Io, è corretta come analisi. Io ho sempre avuto, se posso, Lucchi, la sensazione, Agostino, l'abbiamo sentito un miliardo di volte, nostro amico, eccetera, eccetera, e la condivido con Roberto, che il vecchio professore non lo confessa, io perché io gliel'ho chiesto diretto in faccia, un pizzico di gelosia ce l'abbia. Non ho dubbio. Ago ci tiene a essere il primo come numero di vittorie, come campionati, cioè ci tiene, giustamente dice: perché devo essere contento che mi fregano il mio record? Perché devo essere contento? E lui ci tiene sicuramente, però insomma il fatto di Valentino bisogna rispettarlo, proprio perché diamo il valore che ha a Valentino, bisogna però dire bravi agli altri che gli stanno davanti. Sì, e ci dimentichiamo sempre che se ci stanno davanti sono bravi questi. Sì. Ecco, e negli ultimi 8 anni ha trovato dei bravi. Ha trovato dei bravi e delle moto forti. Ha cominciato con Stoner 2, con l'altro due, Lorenzo, due sono già sei, poi me li dimentico io perché non ho tanta memoria, però no, 8 anni fa non era vecchio, era 8 anni fa più giovane, quindi se, non è più un giorno che non vince. Lupinelli, quello che anche tu sei severo con Valentino Rossi, mica solo Agostini. No, ma io ragazzi, non è che sono severo. Mi sembri questo mio amico Serrau velista che mi bastona tutte le volte. Ma perché devo dire, che ha vinto si è fatto secondo? Quando Biagi faceva secondo, dicevamo il primo degli scemi, e adesso che fa secondo Valentino, vogliamo dire che è come se avesse vinto? No, ha fatto secondo, cazzo. Ah, ha fatto secondo, cazzo, Roberto Ungaro. È la voce della verità. Marco, ciao, mi sembra di essere nella macchina del ciao, tempo. Roberto. Che ciao, bei Roberto. Momenti. Però siete cattivelli. Che eh? Bello sentire la verità. No, no, no, bisogna... Allora, ragazzi, il cronometro è il cronometro. Non no, si il discute. Cronometro è il cronometro, ma è un conto fare il secondo posto come li sta facendo Valentino Rossi. E siamo oltre il limite. E siamo oltre il limite. Ma per vincere un mondiale bisogna vincere delle gare. Ce n'è solo uno che ha vinto un mondiale senza vincere delle gare. Ma era due Zamora. Anni fa l'aveva vinto Valentino il mondiale, dai, insomma, è inutile che stiamo a riaprire questa questione. Non andate a attaccarvi sempre alle solite cagate di due anni fa, Non andate a attaccarvi a quelle cagate lì, Marco, perché vi porto un esempio semplice. Due domeniche fa, quando Valentino ha tagliato, che l'hanno punito per 3 decimi con la variante. Sì. Giusto che l'hanno punito 3 decimi. Bene, se lì ha tagliato e l'hanno punito, perché non l'hanno punito in Olanda? Hai capito? Cioè, il taglio di variante è sempre un taglio di variante, che sia in Olanda e che Valentino sia in lotta per il mondiale o no. Bisogna essere sportivi. Io purtroppo sono un testa di cazzo, ma sportivo. Hai capito? Sportivo. Il nostro dio è il cronometro, Marco. È vero. Senti, no? Qual è stato il momento più divertente che hai vissuto con Lucchinelli in commento? Io? Non posso. Non puoi ricordarti. Ci vuole un mega beep, devi oscurarlo. Ne ho troppi. È stata una cosa. E comunque ricordatevi che proprio con Roberto io ho fatto uscire 2 canzoni, una delle quali dice: strano, pensare che è umano. Sia stato bambino e non sia ancora. Ma sai che a me piaceva, io hai capito? Sai che mi quindi piaceva il valore gliel'ho dato io, certo. Quando c'è da darglielo, ma Lucchi, dietro, se fai il secondo non è come aver vinto, hai fatto secondo. Se fai il primo vale il doppio, dicono. No, vale un primo, non vale il doppio. No, questo vale uno. Non fa una pena. Ma sai che a me piaceva, io la volevo nera, la mia donna vera, la volevo sei un intenditore, la volevo rossa ma non tanto bassa. Io te la posso anche cantare, la volevo nera, la mia donna nera. Scusate, vorrei intromettermi solo per la sera con la pelle chiara. La volevo bionda, morbida e rotonda. Rotonda, femmina per te. Ma grande, un applauso a Carlo Getta finalmente, dai. E si scoprì. E si scoprì. A parte tutto, bisogna ricordarti. Te l'ho già detto, diamo i meriti che c'ha Valentino, ma diamo i meriti anche agli altri ragazzi, perché se no non ci siamo. E quando non ci sarà Valentino, ci sarà un altro bravo che si farà godere. Il motociclista vuole godere, se no sono testimoni di Geova. Briatore qui ha detto che quando non ci sarà più Valentino sarà un po' come quando è morto Senna per la Formula 1. Eh sì. Io non te lo so dire, anche Pantani e Tomba, non mi interessa, però io sono uno sportivo e guarderò le moto se ci sarà uno che mi fa godere. E chiuso certo. Il petto. Se poi è italiano anche di più mi diverto. Cosa ne pensi, Turrini? Ma io volevo a nome del mio amico velista Serrau citare la canzone che credo più di ogni altra renda merito a Marco Lucchinelli. Sarebbe? Ma voi avete citato delle robe lì all'Edoardo Vianello, no? Gli status quo, whatever you want, qualunque cosa tu voglia. Quando io sentivo quel pezzo lì mi veneva in mente Crazy Lucky in groppa alla sua motocicletta. Ma grazie Marco. Se gente fosse un bravo conduttore ci farebbe sentire il ritmo delle chitarre. Se tu avessi Facebook, Leo Turrini, e fossi di questo secolo, avresti visto che l'ha già ordinata. No, gente, al massimo ordinata. Si ferma gli alunni del sole, hai capito? No, ma se tu ce l'hai Facebook, Leo, ce l'hai. I nuovi angeli, ma per carità. Zitti tutti, silenzio. Guardi, eccola. Grande. Eh sì. Marco? Eh sì. Beh, certe notti in discoteca, insomma, va bene. Va bene. Ma fai sentire, vai, che parte adesso. Senti, però. Lucchinelli accelera. Sì. Eh no? Ho paura, no. Sì. Da paura. Anche la musica di una volta è un'altra musica. Ma te lo dico, Marco, ma mi ricordo io e Enzo Ferrari ascoltavamo sempre gli Status Quo quando... tu sai che io ho avuto, Turini, ho avuto una sfiga, perché io dal vecchio mi disse che se vincevo il mondiale mi avrebbe fatto provare a Maranello, a Fiorano. Sì. Io però ho avuto una sfiga che la gara dopo aver vinto il mondiale la organizzava Schecter in Inghilterra, Donington. E sono caduto e mi sono rotto due braccia e due gambe. Sono arrivato lì a Fiorano e con i Jesse, c'era il vecchio. È arrivato giù con l'elicottero Villeneuve col figlio piccolo, che poi è questo qua. Ecco. Guarda, io ti dirò una cosa, Marco, per questa sfiga tua ci siamo persi una grande opportunità, perché tu, altro che Valentino sulla Ferrari, avresti fatto dei giri record con la rossa. Grazie, Marco. Guidavo bene, te lo dico, quello mi domerito. Ho vari testimoni, compreso Graziano Rossi. Alza. Nuvolari, Achille Vardi. Ragazzi, proseguite voi, perché io mi sto commuovendo a parlare con Lucchi Dalli. Ciao Leo, ciao. Allora, io voglio invece chiudere, prima io mi sono commosso, ma sul serio, nel sentire Carlo Chris, ricordi Chris che ci sono i piloti, i campioni e le rockstar. Marco è una rockstar. Grazie Robby, sei una bestia. Sei una l'hai bestia. Sentita l'ultima Robby? Ancora no. Mia? La sigla? No, ancora come no. No. Inizia con c'è quell'antipatico che non l'hai mai visto sorridere, quello che non chiude mai, fatto per piacere, per vincere. Senti, la mandiamo in radio, certo. Questo avanti, il venerdì è appuntamento fisso con Roberto Ungaro e con Leo Turrini per i motori. Senti, abbiamo 3 minuti, credo che bastino, perché non secondo me è giusto spendere le parole giuste. E io le lascio a Roberto. No, allora, siamo tutti molto tristi per la questione Aiden. Però io voglio dire una cosa, poi ti lascio la parola, Marco. Però io vedo troppa roba, il web sta impazzendo, si vedono troppe foto con lui, troppe citazioni, troppi perché tutti atti, vogliono essere troppi atti di protagonismo, e allora tutti via, protagonisti, esatto, via l'ego, perché il momento è delicato. Noi vogliamo in tutti i funerali, Robby, noi vogliamo vivere di bollettini medici e basta, e aggiornarci di questo, perché noi incrociamo le dita e le nostre preghiere sono per lui e vogliamo solo che ritorni. Ricordati, a sorridere, Robby. Però Robby, da parte l'ego, perché è tutta luce riflesse che cercano queste persone, e invece bisogna stare da parte. Sei Roberto, d'accordo? Hai detto perfettamente, hai detto tutto. E ti dico una cosa, io che su queste cose qua ci divento matto, l'ho visto in tutti gli incidenti, da Doriano Romboni agli altri, manie di protagonismo, gente che deve esserci a tutti i costi, che deve dire la sua. Mi sono anche un po' rotto le palle. Guarda, io sono arrivato adesso in bicicletta, che strano ma vero, odiavo i ciclisti, e invecchiando mi sono messo a far bicicletta anch'io. È assurdo quello che è successo e quello che sta succedendo. Si vede che sono periodi delle slavine, adesso le biciclette, c'è sempre qua. Però voglio dire, mi dispiace, perché era veramente chiunque, ma lui era veramente un bel personaggio. Io usiamo, sento troppo bello, usiamo il tempo presente, Marco, certo. Ho sbagliato io, scusa. E ho sempre detto troppo bello per essere, ti ricordi Roby che lo dicevo, per essere un pilota, perché era anche è troppo bello per vincere, è anche un bel ragazzo, no, sto... non c'è nessuno che abbia qualcosa da dire, tutti hanno un sorriso per lui, perché è uno vero appassionato, malato di moto, una famiglia dove tutti i due fratelli corrono, il padre correva, e è una cosa, lui è uno vero. Sono d'accordo. Ragazzi, non ho altro da dire. No, nessun altro da dire, ma noi abbiamo proprio scelto la politica di Roberto Ungaro in questa settimana in cui è accaduto questo, cioè quello di leggere le ultime ore, i bollettini medici. Non vogliamo parlare di colpe, responsabilità, che succede. Leggiamo, che leggiamo i bollettini medici. Le parole di Roberto Ungaro sono un libro stampato che vale qui a Radio 24. Grazie e Luchi. Bene per, e fate bene perché è un grande. Robby, ciao, a presto. Ciao Marco. Buon arrivederci. Ciao, sì. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao, ciao, ciao. Allora, dobbiamo chiudere, Robby. Ci vediamo. Sentiamo domenica, certo, ci aggiorniamo per la gara. Bel messaggio questo e torneremo a parlare dello spettacolo perché bisogna vivere il presente. Assolutamente. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita e preghiamo. Grazie Giovanni. Ciao. Capuano. A domenica 17. A domenica 17. Ciao. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Ravezzari in redazione. Ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.